innanzitutto il caso di Bologna, il libro di Stella. Stella è un giornalista che sforna libri diffamatori della Resistenza da molti anni, ha avuto anche delle denunce e delle condanne in via definitiva per questo, perché davvero attribuisce alla Resistenza colpe di ogni sorta, insomma, è proprio un odio antiresistenziale radicale. Quindi in questo caso non si tratta neanche di revisionismo, si tratta veramente di un attacco abbastanza rozzo alla Resistenza, ecco, diciamo sulla falsa riga di Pansa, ma molto peggio di Pansa, molto più rozzo di Pansa. L'operazione fatta da Pansa è quella invece di enfatizzare le violenze partigiane, dando loro una interpretazione assolutamente infondata storicamente di un desiderio rivoluzionario che si sarebbe alimentato col sangue delle vittime, ma assolutamente infondato. Che dire in questi casi? Beh, la prima considerazione, bisogna sempre distinguere tra le opinioni e la propaganda. Questo libro è una forma, questo libro, questi libri sono delle opinioni sbagliate, sono delle opinioni offensive, sono delle opinioni che quando passano il limite possono essere oggetto di denunce per diffamazione. Per esempio Stella è stato condannato per aver diffamato Boldrini, il grande comandante partigiano, poi presidente nazionale dell'AMPI, che era stato accusato di essere responsabile della strage di Codevigo, per esempio. Ma si tratta di opinioni che possono essere contrastate sul piano culturale dando l'interpretazione corretta, che possono essere contrastate sul piano della qualità dell'informazione, e cioè passandole al vaglio come si deve, e che possono essere, diciamo, contenute dal limite di non superare la diffamazione su fatti specifici. Invece altro è la propaganda. Ecco, io sarei contrario a norme che limitano l'opinione, perché sono sempre molto rischiose e sono sempre molto autoritarie, e invece sono molto favorevole a colpire la propaganda. E la propaganda è tutta un'altra cosa, e cioè quando uno si proclama fascista, quando una persona, un gruppo fa riferimento esplicito a luoghi, a fatti, a espressioni fasciste, siamo nel campo della propaganda, non siamo più nel campo dell'opinione. E allora, poiché il fascismo è un crimine, parlare di fascismo, rivendicarlo apertamente, è sostanzialmente, appartiene alla categoria dell'apologia di reato. Quindi in questo caso io ero per esempio molto convinto positivamente della proposta di legge Fiano, indipendentemente dalle altre posizioni politiche di Fiano, sulle quali probabilmente siamo molto distanti, ma quella legge era molto azzeccata, perché è chiaro che non avrebbe potuto contenere in tutto, ma stabiliva esattamente dei limiti oltre i quali si passava nell'ambito del reato. Cioè oggi nessuno in Germania si sognerebbe di considerare il saluto romano come una normale libera espressione, non si capisce perché in Italia dobbiamo invece considerarlo come una opinione qualunque, è propaganda, e quindi siamo in un ambito completamente diverso. L'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale ha deciso che il fascismo era un crimine, ha deciso che era un crimine fondato innanzitutto sulla propaganda di massa, e quindi ha deciso di limitare questa forma di espressione. Questo credo che invece sia un punto che va difeso, insomma, a oltranza. Sul campo delle opinioni invece c'è poco da fare, oppure c'è moltissimo da fare, c'è poco da fare sul piano normativo, sul piano politico, e c'è moltissimo da fare invece sul piano della battaglia culturale, della battaglia delle idee, sulle quali in effetti lo spazio c'è. Proibire pubblicazioni o iniziative in cui appunto si presentano pubblicazioni che sono appunto frutto dell'opinione trascenderebbe poi dalla democrazia. Infatti, noi non possiamo assolutamente metterci sullo stesso piano dei regimi autoritari limitando le opinioni, anche perché le opinioni possono avere un senso, cioè possono esserci opinioni assolutamente sbagliate, ma che vengono comunicate, trasmesse, pubblicate e contenere anche degli aspetti di un qualche interesse, possono essere comunque oggetto di riflessione. L'opinione non si può toccare, anche se è sbagliatissima. Invece non solo si può toccare, ma si deve perseguire la propaganda del fascismo. L'istigazione al fascismo è un'istigazione di reato, e quindi questo assolutamente non può essere ammesso. Ora, è chiaro che le due cose non sono così nettamente distinguibili, cioè è chiaro che chi promuove la presentazione di un libro come quello di Stella sta facendo un'azione propagandistica e non un'espressione d'opinione. E quindi il confine è molto sottile, ma il problema diventa a questo punto quello della battaglia politica che siamo in grado di condurre. È un tema tipicamente politico.